Genova è diventata per molti italiani, ma non per tutti naturalmente, un simbolo, il simbolo di una risposta militare a manifestazioni pacifiche, anche se molto radicali. E per molti italiani, ma non per tutti, Genova è stato il punto di partenza di pratiche politiche che, seguendo come al solito il classico fiume carsico, poi avrebbero portato alla vittoria sui referendum e a questo famoso nuovo vento di questi mesi. Ecco, noi parliamo questa sera di questi temi, lo facciamo qui negli studi di Radio Popolare di Milano con Vittorio Agnoletto, che insieme a Lorenzo Guadagnucci ha deciso nel decennale del G8 di scrivere un libro, L'eclisse della democrazia, che ragiona su questi e altri temi. Ne approfittiamo anche perché domani questo libro verrà presentato a Milano, la Camera del Lavoro, e noi abbiamo invitato quindi a questo punto anche il segretario della Camera del Lavoro, Onorio Rosati. Buonasera anche a te. Buonasera a voi. Allora, tutto questo giro, questa lunga presentazione per arrivare a toccare un tema che naturalmente credo che molti dei nostri ascoltatori, come dire, portino ancora nel cuore, ma non solo. Io dico come si può intervenire in questa trasmissione, come sempre, visto che ho un microfono aperto, 02 33 001 001, diretta @popolarenetwork.it, o ancora gli sms al 331 62 14 013. Scherzando, ma fino a un certo punto, con i titoli, diciamo così, di questa trasmissione, lo dico a Vittorio Agnoletto che è davanti a me, dicevo: sono passati 10 anni e sembra ieri, e quel sembra ieri ovviamente ci riporta alla Val di Susa, dove c'è stato una risposta di tipo militare da parte delle forze di polizia, dei carabinieri, ma dove c'è stato, lo ricordiamo, anche una vera e propria come dire assedio, questo è il vero, la vera parola, ai cantieri dell'alta velocità. È difficile tenere assieme i due elementi, fare il confronto tra Genova e la Val di Susa. Ci sono degli elementi che li accomunano? Buongiorno a tutti. Io sono rimasto molto impressionato questa mattina leggendo i giornali e ascoltando ieri sera i telegiornali. Come dire, non cambia mai nulla. Non c'era una parola sulle ragioni che hanno portato 50-70.000 persone della Val Susa e non solo a manifestare. Non una parola su un movimento che è in piedi da 20 anni, pacifico, e che coinvolge la maggioranza della popolazione di quella valle. Tutti i servizi televisivi e tutte le pagine erano sugli scontri, sulle violenze e su delle azioni prodotte da alcuni gruppi sicuramente estremamente minoritari rispetto alla gran massa dei manifestanti. Questo è stato lo stesso schema che fu utilizzato 10 anni fa a Genova, per non parlare delle ragioni di quel movimento, delle ragioni che hanno portato 300.000 persone a Genova, e per spostare il dibattito unicamente sulla questione dell'ordine pubblico e quindi della repressione, e non sulle ragioni. Io credo che nel caso del movimento Notav si debba invece fare un grande sforzo per tornare sulle ragioni, perché se no non capiamo perché 20 anni che rifiutano l'alta velocità, non perché vogliono tornare indietro di secoli, semplicemente perché è un'opera inutile, dannosa, di cui non c'è necessità. Il trasporto merci est-ovest è crollato, la vecchia linea ferroviaria che è in funzione è utilizzata al 30%, quindi può sicuramente coprire tutto il necessario per i prossimi decenni. I lavori rischiano di distruggere la valle, di produrre anche gravi rischi in termini sanitari, mi riferisco al rischio dell'amianto, eccetera. Di queste cose bisogna discutere. E invece i giornali ignorano le ragioni della protesta. Questo, tra l'altro, fa il gioco unicamente di chi poi mira all'azione esemplare violenta che finisce solo per danneggiare il movimento. Nel pomeriggio di oggi ho trovato un'altra similitudine guardando in rete. Sono, lo devo dire, rabbrividito leggendo le testimonianze, ascoltando le testimonianze di alcuni ragazzi che sono stati pestati. Parlano di una serie di manganellate quando erano stati già bloccati e mobilizzati, gli hanno tirato addosso dei bicchieri d'urina, li hanno sputati, li hanno minacciati di morte. Ecco, quei racconti riecheggiano, perché non sono sovrapponibili, ma riecheggiano alcune delle violenze di cui abbiamo sentito parlare a Bolzaneto a proposito di Genova. Questo mi preoccupa molto, perché significa che dentro la polizia poco è cambiato in 10 anni. D'altra parte mi chiedo cosa può essere cambiato quando ai vertici delle forze dell'ordine, dei servizi segreti, vi sono le stesse persone condannate anche in appello dai processi genovesi e che, anziché essere state rimosse, sono state promosse. Stessa domanda a Vittorio Gnoletto e anche a Onorio Rosati, segretario della Camera del Lavoro di Milano. Tra le similitudini che a forza in qualche modo uno vuole introdurre tra Val di Susa e Genova, io dico a forza perché sono proprio due cose diverse, c'è anche quello della famosa presa di distanza. E come? Lì ci sono i violenti, voi movimento pacifista dite che non c'entrate niente. Oggi posso rispondere in modo molto tranquillo, non lo diciamo solo noi, lo dicono le sentenze dei processi della Diaz, di Bolzaneto, perfino della sentenza sui 25, dicono in modo molto chiaro che il Genoa Social Forum non aveva alcun rapporto con i Black Bloc, anzi che noi siamo stati minacciati e assaliti dai Black Bloc, e che allora la destra, che era il governo come governo adesso, aveva tentato in tutti i modi di costruire un'immagine di contiguità del Genoa Social Forum per bloccare la crescita di quello che era un movimento allora estremamente forte. Onorio Rosati? Ma sicuramente, pur con tutte le difficoltà del caso, 10 anni sono molti, l'elemento che balza più all'occhio su questa vicenda della Val di Susa è come viene data l'informazione, non solo sui fatti di ieri, ma come è stata preparata la manifestazione di ieri. Cioè, da quando è stato cantierizzato il sito alla manifestazione di ieri sono passati un po' di giorni e evidentemente c'è stata nell'opinione, non nei mezzi di informazione, un accentuare i toni, quasi che ci si volesse augurare che potesse succedere qualcosa. Dopodiché è vero, le due cose non possono essere sovrapposte, quindi movimenti con questi gruppi che fanno violenza, però io penso che ci sia un problema, nel senso che nella misura in cui tu fai una manifestazione di quella natura lì stai cercando di parlare al paese, e quindi quelle persone che manifestano vogliono aprire un canale di comunicazione con il paese. Se dentro questo canale di comunicazione si frappongono delle minoranze che di fatto regalano le prime pagine del giornale il resoconto degli scontri piuttosto che i contenuti, è un problema, non è un problema di primogenitura, ma è un problema con il quale comunque bisogna fare i conti. L'altro aspetto è un aspetto, tanto anche per dialettizzare anche un po' con Vittorio, sulla questione delle infrastrutture del nostro paese. Cioè, anch'io sono molto perplesso sull'utilità della TAV, sugli investimenti, su quando verrà completata l'opera e tutto, ma io penso che ci sia un problema più profondo nel nostro paese che va guardato per quello che è, perché noi abbiamo un problema di un paese che comunque ha un deficit di infrastrutture. Ogni volta che si ragiona di infrastrutture si costituiscono dei movimenti più o meno locali che sono contrari alla TAV, e su questo io posso essere d'accordo. Poi vai in campagna e sono contrari altri, naturalmente, movimenti, sono contrari alla costruzione dell'inceneritore per quanto riguarda lo smaltimento, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti. Penso che ci sia un problema che riguarda prevalentemente il nostro paese, perché situazioni del genere da altre parti non li si percepisce nello stesso modo, in altri paesi europei, dove a fronte di taluni interventi che sono anche fortemente, diciamo così, invasivi rispetto ai singoli territori, c'è una risposta del territorio che probabilmente, io la metto così, forse perché i percorsi decisionali che portano poi all'individuazione dei siti, alla definizione di quello che su quei siti va fatto, non sono percorsi democratici che coinvolgono sufficientemente le istituzioni e le realtà locali. Io ho cercato di darmi questa risposta, però noto un'anomalia italiana, tutta italiana, rispetto ad altre vicende che in altri paesi si riesce a gestire diversamente. Torneremo a parlare di Genova, adesso non ci concentriamo naturalmente sulla TAV o no TAV. Un'ultima domanda veramente su questo tema qua, poi dopo naturalmente gli ascoltatori, se vorranno, potranno ancora intervenire su questo, ma fra poco. C'è possibilità di fare una sorta di appello? Io credo poco agli appelli, però c'è la possibilità di fare un appello al dialogo, perché mi ha colpito molto quello che ha detto Sandro Plano. Sandro Plano è un esponente, è il presidente della comunità montana della Val di Susa, era preoccupatissimo ieri, e lui ha detto una frase molto semplice: se vince la violenza perde la politica, e qui la politica ha perso di brutto. Però dopo i valligiani, diciamo così, devono convivere con questi cantieri, ci sarà naturalmente mille manifestazioni, penso a, insomma, all'aspetto sociale, alla CGIL, ma quante manifestazioni ci saranno contro la manovra? Ma che clima c'è nel paese? Si può fare un appello invece al dialogo? Conosco molto bene la Val di Susa, sia perché vado su fin da quando sono ragazzino, ho fatto tutte le cime, e sia poi perché col movimento sono tornato su in questi ultimi 10 anni. La gente della Val Susa è assolutamente pacifica e sta cercando, non da 10 ma da 20 anni, di discutere con le istituzioni, ma non gli è stata data questa opportunità. Facciamo un esempio: è stato inventato l'osservatorio presieduto da Virano, sì, ma l'osservatorio doveva discutere come fare l'alta velocità. Ah, certo, non era il non se. Se fare, certo. E questo nonostante non il Valligiano da solo, ma il Politecnico di Torino abbia prodotto una quantità incredibile di studi che dimostrano come non ha nessun senso costruire qualcosa che costa 16-17 miliardi ad oggi di euro, quindi sappiamo che cosa vuol dire poi in termini di debitazione, per dei lavori che si dovrebbero protrarre per circa 20 anni in una valle che contiene oltretutto amianto, per un'opera di cui non c'è necessità. Cerchiamo di capirci bene, nessuno in Val Susa contesta il trasporto per via ferrata. Si dice semplicemente: spendendo molto meno di 1 miliardo è possibile rimettere in sesto bene l'attuale linea ferroviaria che già esiste, ma modernarla, e che, ripeto, è usata al 30%. Allora, la ricerca del colloquio, la ricerca del colloquio da parte della Valle c'è sempre stata. La risposta è stata prima con un osservatorio che discuteva solo sul come farla e poi con una militarizzazione totale. Nel giro di un mese, 2 anni e mezzo fa, hanno raccolto 30.000 firme nella Val Susa che hanno portato al Parlamento di Bruxelles, hanno chiesto che ci fosse un'analisi di impatto ambientale, tutte quelle cose che non sono state assolutamente fatte. È tutt'altro che un movimento che guarda indietro, che guarda solo al proprio territorio. Alla discussione, al confronto, si è preferito da parte dello Stato un intervento militare, e questo è il risultato. Onorevole Rosati, un appello? Ma io penso che ci sia un problema di dialogo più complessivo nel nostro paese, cioè quando i movimenti, le associazioni, ma anche il sindacato, io penso alla CGIL, alle tante lotte fatte in questi anni, hanno sempre cercato di avere un confronto tra anche istanze diverse. Pensiamo ad esempio al governo, non c'è mai stata l'apertura di un tavolo. Cioè, uno dei problemi è che probabilmente queste vicende sfogano anche in questo modo, anche in ragione di una frustrazione che si registra, in ragione di una mancata apertura di un confronto, di un dialogo, e quindi si ha quasi la sensazione che le iniziative di lotta e le mobilitazioni non possono sfociare, non dico nel cambiamento di una decisione, ma tantomeno possono sfociare neanche nell'apertura di un confronto che invece servirebbe. Per cui mai come in questo caso c'è bisogno di dialogo sulla vicenda TAV, dialogo più complessivamente con le parti sociali su tutti i temi. Pensiamo ad esempio, non ne parliamo questa sera, della manovra che il governo cioè lì c'è assolutamente bisogno di un dialogo, se non altro per un confronto tra diversi. Noi abbiamo posizioni che sono evidentemente inconciliabili con quelle del governo, ma un confronto sarebbe comunque opportuno, cosa che non avviene, e penso che questo sia un elemento che mette a grave rischio la democrazia nel nostro paese. L'abbiamo fatta un po' lunga, ma appunto la cronaca, l'attualità strettissima richiamava probabilmente di parlare di questi temi. Vittorio Gnoletto insieme a Lorenzo Guadagnucci hanno scritto questo libro, L'eclisse della democrazia, si riferisce a Genova naturalmente, è il decennale del G8, c'è un sottotitolo di questo libro, Le verità nascoste sul G8 2001 a Genova. Ci sono delle verità nascoste, te lo dico non in maniera retorica, Vittorio Gnoletto, perché in qualche modo forse la verità è chiara, invece secondo te c'è ancora qualcosa che non si sa, che non si conosce? Ci sono, intanto quello che non si conosce è chiaro a tutti, cioè le vicende sul processo per l'uccisione di Carlo. Lì non c'è stato un processo, non hanno voluto farlo, hanno cercato di far credere al popolo italiano, trattandolo come un bambino, che un proiettile può essere deviato da un sasso al volo, un calcinaccio, e non hanno, appunto, un calcinaccio. Non hanno voluto discutere in un pubblico dibattimento dove sarebbe stato interessante, come noi scriviamo nel libro, portare una serie di elementi che richiedono delle verifiche. Cosa ci faceva un corpo speciale dei carabinieri in borghese con ufficiali di altissimo livello che sono quelli che operavano in Somalia quel giorno in Piazza Limonda? Come mai i carabinieri al comando del capitano Antonio Bruno alle 3 di pomeriggio decidono del 20 luglio di attaccare il corteo delle tute bianche in contrasto con indicazioni della questura, noi mettiamo tutte le registrazioni della questura che dice al capitano Antonio Bruno: ma cosa fate? Fate risalire i vostri uomini e andate via, dovete inseguire i Black Bloc dall'altra parte di Genova. Questa era l'indicazione che era stata data. Invece i carabinieri vengono si fermano, scendono dai loro automezzi, lanciano un attacco contro le tute bianche, corteo che, secondo quanto dicono i magistrati giudicanti nella sentenza, era un corteo che procedeva in modo pacifico, autorizzato, e i magistrati giudicanti dicono che l'attacco contro le tute bianche è stato ingiustificato, illegittimo e non necessario. E anzi forniscono anche i nomi dei responsabili di questo attacco, che avrebbero poi dovuto avere un altro processo che non c'è mai stato. Mentre su Bolzanetto e sulla Diaz, per chi vuole informarsi, oggi sappiamo tutto. La ricostruzione delle sentenze è precisissima. Quella non è più una verità nascosta, una verità, diciamo così, pubblica a questo punto. È nascosta perché nessuno ne parla. Quanti sanno, nessuno intende i media, certo. Quanti sanno quello che è accaduto nei 9 anni dell'inchiesta? Quando in tutti i modi si è cercato di bloccare l'inchiesta. Per esempio, noi raccontiamo, anzi lo racconta il pubblico ministero Enrico Zucca nel nostro libro, quando dopo alcuni mesi che erano partite le inchieste, siamo all'inizio del 2002, arriva dalla polizia, dalla questura di Genova, una richiesta esplicita, una sorta di patto rivolta ai magistrati, e cioè si chiudono tutte le indagini, fate finta che non sia accaduto nulla, si volta pagina. E questa proposta viene riportata, è fatta dalla questura, viene riportata dal procuratore aggiunto Giancarlo Pellegrino ai pubblici ministeri, viene rifiutata dai magistrati, le indagini vanno avanti. Quando arrivano a un certo punto, viene allora fatta girare una voce nel Palazzo di Giustizia: attenzione ai magistrati, se andate avanti così ci può essere una rivolta da alcuni settori della polizia. Non sono cose campate in aria. Non dimentichiamoci che a Napoli, quando i magistrati hanno deciso di fare un mandato d'arresto su 2 poliziotti, i poliziotti, per impedire l'arresto dei loro colleghi, hanno circondato la questura di Napoli, impedendo che fosse attuato il mandato dei magistrati. Allora, sono questioni completamente sconosciute, che però dimostrano come i vertici della polizia e la questura di Genova hanno fatto di tutto per impedire il procedere delle inchieste, fino ad arrivare alla vicenda delle Molotov. A un certo punto gli avvocati degli imputati, gli avvocati dei poliziotti, dicono: portate in aula le Molotov, e le Molotov sono scomparse. Perché sono scomparse? Era una prova contro i poliziotti, perché i magistrati chi dovevano affidare le Molotov? Le hanno affidate alla questura, la questura doveva conservarle. Al momento opportuno erano sparite. Noi raccontiamo come fanno i magistrati a scoprire dove sono finite quelle Molotov, e lo scopriranno seguendo un'inchiesta di altro tipo, di criminalità organizzata. No, no, non svelarlo, perché sennò uno compra il libro. No, c'è di mezzo un uomo d'affari siriano, insomma. Ecco, allora, queste sono verità preoccupanti. Preoccupanti. Riporto solo una frase. A un certo punto Zucca dice, pubblico ministero: la difficoltà di questo processo è stata simile ad altri 2 tipi di processi, a quello contro la mafia, perché anche in quel caso c'è chi si organizza fuori, cerca di modificare le prove, agisce una banda, e poi dice la difficoltà è stata come nei processi per violenza sessuale, perché anche lì le vittime molte volte sono trattate come colpevoli e sono loro che devono dimostrare di dire il vero e non gli imputati. Questa frase di Zucca è drammaticamente vera. Io ho un ricordo semplicissimo: quando si entrava nell'aula del processo, gli imputati, cioè i poliziotti, passavano, i carabinieri si alzavano in piedi a salutare se erano di grado elevato, e loro erano gli imputati. Quando passavano le vittime della Diaz, venivano perquisite e fatte passare sotto il metal detector. Avevano invertito già le parti. 20 e 21 minuti, siete su Popolare Network. Vittorio Agnoletto e Onorio Rosati in studio qui da noi. Vittorio Agnoletto ha scritto insieme a Lorenzo Guadagnucci questo libro, Le crisi della democrazia. Non ho mai detto che è di Feltrinelli, adesso lo dico, lo aggiungo. Li abbiamo invitati anche perché domani alle 18 saranno la Camera del Lavoro di Milano proprio a discutere di questi temi. Onorio Rosati, dal sindacato di polizia, il SILP vostro, CGL, che messaggi sono arrivati in questi anni, appunto, del dopo Genova? Ma diciamo che anche in ragione di un processo di smilitarizzazione, di democratizzazione all'interno del corpo della polizia, ci sono stati segnali molto diciamo molto di apertura rispetto a questi temi. Non si sono bloccati invece dopo Genova queste aperture, appunto, come diciamo che si è bloccato quel processo, ad esempio, di sindacalizzazione che all'interno del corpo della polizia stava avvenendo. Non dimentichiamo che la CGIL è all'interno della polizia un sindacato di minoranza, nel senso che sindacato di maggioranza in questo caso è un sindacato che fa riferimento alla CISL, che fa un altro che fa riferimento a un sindacato autonomo, sì. Però e devo poi ci dire... sono tanti, poi lo ricordiamo perché è importante per gli ascoltatori, scusa l'interruzione, ci sono tanti sindacati legati, come dire, a delle funzioni particolari, c'è sindacato dei funzionari di livello intermedio, sindacato dei funzionari di livello più basso, eccetera, eccetera, di questo genere, certo. Nella polizia. Noi abbiamo i nostri, diciamo così, con tra tantissime difficoltà nel rapporto con i propri colleghi, hanno cercato comunque di tenere aperto un canale di confronto e di dialogo su questa vicenda, improntato anche al tentativo di portare chiarezza dentro una vicenda che anche nel libro ha sicuramente degli aspetti, diciamo così, perlomeno controversi. Devo dire che la cosa non è sempre stata apprezzata. In alcuni casi prevale uno spirito di corpo e se tu poni qualche critica o ti metti di traverso o chiedi che qualche aspetto di queste vicende venga messo più in trasparenza, vieni percepito come un corpo estraneo alla polizia. Devo dire che è un tema che riguarda sicuramente quanto è avvenuto nel 2001, ma anche su vicende successive. Pensiamo ad esempio a tutte le vicende relative agli sgomberi rom, pensiamo a tutte le volte che la polizia è stata impiegata in funzioni di questa natura, c'è sempre stata da parte nostra una voce critica, questa voce critica però è stata sicuramente una voce di forte minoranza all'interno della... Vi propongo di prendere magari già un paio di telefonate e di leggere qualche mail. 02 33 001 001, diretta chiocciola popolarenetwork.it, oppure gli sms al 331 62 14013. Vedo che scrivono i telefoni, prendiamo un paio di telefonate veloci. Pronto? Pronto, sono io? Sì, chi parla? Ciao, buonasera, sono Luca. Prego Luca. Ascolta, io volevo chiedere una cosa, soprattutto a voi giornalisti. Allora, quando si parla di violenze, in particolare quando si è parlato di Valsusa, di fare un po' di chiarezza, perché se siete giornalisti dovreste fare lavoro di indagine e non parlare genericamente di black bloc, di violenti. Primo, è stato appurato da mille fonti che i black bloc non esistono, e lo dico con cognizione di causa. Seconda cosa, ieri in Valsusa chi si è reso protagonista di violenze più o meno gravi aveva il supporto pieno dei valsusini, perché hanno fatto da mangiare, hanno ospitato in casa, battevano le mani. Ed era mista la composizione, non c'erano da una parte i centri sociali e dall'altra le brave persone. A questo tengo molto a sottolineare, perché poi sembra che sono sempre gli stessi professionisti che vanno in giro per il mondo, quando non è così. E voi dovreste saperlo e dirlo, e se fate davvero lavoro di giornalisti, non fare pubblicità ai libri, ok? Ma fare di indagine per sapere, per scoprire quali sono le cause che hanno portato una popolazione pacifica a supportare degli scontri. Grazie, buona serata Luca. Vabbè, insomma, cosa devo fare? Era rivolta a me la domanda. Pensavamo di averlo fatto questo lavoro, si vede che Luca non ha ascoltato la radio. 02 33 001 001, diretta chiocciola popolarenetwork.it, oppure gli sms al 331 62 14013. Devo dire che Vittorio Agnoletto, Nori Rosati, era un po' difficile parlare di Genova il giorno dopo quello che è successo in Val di Susa, e lo abbiamo, come dire, la prova, ma noi andiamo avanti. Pronto? Pronto? No, qui non c'è nessuno, quindi lasciamo perdere. Allora, uno dei temi che sicuramente affronta questo il libro di Vittorio Agnoletto, che naturalmente sarà argomento, insieme a Lorenzo Guadagnucci, che sarà argomento della discussione di domani, è appunto quello della magistratura. La magistratura però, adesso vedo se riesco a trovare il passaggio che mi sembrava molto importante, quando Vittorio Agnoletto diceva che ci sono state delle sentenze tutto sommato storiche, perché quelle che in Italia hanno condannato dei funzionari di polizia per le violenze sono a loro, come dire, a buona ragione definibili come storiche, perché quel senso di corpo di cui parlava Onore Rosati prima, che tende, come dire, a rendere difficili, no? I percorsi giudiziari, si è rivelato alla grande in questi processi. Sì, anche perché le poche persone, però ci sono state, delle strutture dello Stato che hanno collaborato con i magistrati sono le uniche che non sono state promosse. Io penso a Marco Poggi o a Ivano Pratissoli, che sono due infermieri penitenziari che lavoravano a Bolzaneto e che hanno testimoniato le torture che vi sono state, permettendo così ai magistrati di prendere sul serio le testimonianze delle vittime. Hanno dovuto abbandonare il loro lavoro e Marco Poggi è stato considerato un infame dei suoi colleghi. Infatti ha scritto un libro, Io l'infame di Bolzaneto. Posso parlare di un altro poliziotto, noi lo citiamo nel libro, che per aver collaborato con i magistrati si è trovato le quattro gomme della macchina tagliata, ha dovuto abbandonare la polizia, oppure di Ansoino Andreassi, che era il vice capo della polizia. Stiamo parlando degli altissimi vertici. Di altissimi vertici, in questo caso, il quale ha accettato di rispondere alle domande dei magistrati, ha spiegato come era cambiata la strategia, gli ordini di De Gennaro, come è stato deciso l'assalto alla Diaz, e ha troncato, si è visto troncare totalmente la sua carriera. È stato rimosso anche dalla polizia, poi è andato in pensione, mentre tutti coloro che sono stati condannati sono stati promossi. Sì. La cosa di cui si discute poco è che sono poco meno di un centinaio, tra poliziotti, carabinieri, personale dell'amministrazione penitenziaria e personale medico anche dell'amministrazione penitenziaria, sono quasi un centinaio che sono stati condannati. 44 dentro il processo per Bolzaneto, 25 nel processo della Diaz, 2 De Gennaro è morto per induzione alla falsa testimonianza dell'ex questore Colucci, e poi vi sono tantissimi poliziotti e carabinieri che sono stati condannati per i fatti di strada, cioè loro portavano violenze, diciamo così, portavano, sì, ma molti in questo senso portavano davanti al magistrato dei manifestanti, li accusavano di resistenza, di oltraggio, eccetera. I filmati e le documentazioni smentivano questo, venivano assolti per non aver commesso il fatto i manifestanti, si apriva poi un processo contro i poliziotti che venivano condannati. Allora, è evidente, noi nel libro lo raccontiamo bene, che quei magistrati che hanno cercato di compiere il loro dovere hanno dovuto superare molti ostacoli, molte volte in contrasto con un'altra parte della magistratura o anche con dei loro responsabili che cercavano di bloccarli nelle inchieste, l'indifferenza totale della politica e il tentativo già spiegato prima della questura di Genova. Dobbiamo andare a interromperci per la pubblicità ancora una volta, e ti lascio con questo, diciamo così, prima del break pubblicitario. C'è qualcosa che accomuna Valsusa e Genova, ce lo suggerisce una nostra ascoltatrice Claudia, che dice beh, li accomuna il fatto che chi era a Genova allora poi è stato trasferito a Torino. Si riferisce a Spartaco Mortola. Sì, Spartaco Mortola, diciamolo subito, era capo, in della, 30 secondi, capo della Digos a Genova, due condanne, uno dei più condannati per la vicenda Diaz e per induzione alla falsa testimonianza, promosso prima vicequestore, poi questore, oggi è questore vicario a Torino. Ci sentiamo subito dopo.